Va bene, allora buonasera. Buonasera. Buonasera. Niente, direi che cominciamo. Allora ci sarà un piccolo intervento iniziale, poi le passiamo la parola. Vabbè, ci dispiace che non è riuscita a venire personalmente, però va bene, non importa, ce la caviamo in questo. Abbiamo imparato a cavarcela anche in questo modo qua. Va bene. Sì. Allora passo la parola. Sì, due cose molto veloci. Partirei dal giornale inteso come testata di ieri, un articolo di Filippo Facci che si intitola Salis e quel filo rosso fino a Cospito e le bombe. Dove nasce la guerriglia? Non ve lo leggo ovviamente tutto, solo alcuni passi salienti. Notav, Scattasuna, anarchici, ora esperti del disordine. Le tattiche ricordano le inchieste torinesi del 2014-2015, quando spuntò anche il nome di Ilaria Salis. E poi ancora più in grosso, a pagina 2-3, il titolone «Dove nasce la violenza?». Dagli assalti Notav agli scontri di Milano, un filo rosso lega Cospito, Ilaria Salis e chi mette le bombe per piegare lo Stato. Ecco, questo articolo che va a ripescare alcune vecchie carte e stabilisce certi collegamenti potrebbe essere inteso come il solito minestrone colpevolista, però può essere letto anche in un'altra maniera, secondo me più interessante, e cioè come la fantasmatizzazione di un'unità nell'azione, nel movimento, al di là delle differenti impostazioni, delle scelte di ciascuno come individuo, come gruppo, che agli occhi del nemico di classe, dei rappresentanti del sistema dell'informazione, costituisce un nodo davvero, davvero problematico. Ahimè, appunto è un fantasma questa unità nelle differenze, ma nella comune tensione alla pratica dell'obiettivo rivoluzionario, di fatto è carente, addirittura facciamo fatica a tenere memoria di una serie di passaggi che ci sono in questo articolo, che vi invito comunque a leggere, perché questi passaggi sono stati segnati da divisioni, problemi all'interno del movimento, oltre che dall'avvicendarsi delle generazioni. Ecco, io al di là di questo, che è puramente uno spunto, coglierei questo invito a ragionare sulle nostre vicende di lotta, di solidarietà, sulle pratiche, ovviamente sulle differenze e sulle scelte talvolta assai problematiche, ma in questa coappartenenza che il nemico ci attribuisce e che forse vale la pena divenga qualcosa di vissuto diversamente, ovviamente, ma ripeto, coglierei questa provocazione per ragionare anche su quello che è il corso storico-politico degli eventi, il cui filo conduttore è innanzitutto la pratica repressiva e gli aggiornamenti legislativi da un pacchetto sicurezza all'altro, e questo è un punto di vista importante, significativo, che dobbiamo acquisire criticamente come elaborazione e condivisione di saperi. L'altro filo rosso ha da essere questa continuità nella discontinuità, nell'imbricarsi di tanti fili che costituisce le nostre vite in comune. Ecco, questa è la sollecitazione che può venire dalla lettura di questo foglio di carta da culo, che comunque, insomma, a volte merita l'attenzione. L'altro punto che mi era stato chiesto di riprendere è costituito proprio dal libro da cui siamo ripartiti, anche per pensare un po' l'incontro di questa sera, pensare l'impensabile, tentare l'impossibile. Sapete che è un libro uscito nell'aprile del 23, che contiene tre interventi: quello di Maria Teresa Pintus, di Elton Kalitza e di Charlie Barnau, che invitammo a parlare in un incontro pubblico. C'era l'intenzione di cercare di uscire dai nostri giri, quindi tenemmo l'incontro nella sala comunale di via Palmieri. Ecco, da questo punto di vista fu un fallimento totale, perché l'unica persona non del nostro giro era l'incaricato di aprire e chiudere, che comunque seguì con interesse e partecipazione. L'altro obiettivo era quello invece di cercare di approfondire le tematiche che stavano dentro e sotto le mobilitazioni di quelle settimane, di quei mesi, la questione dentro e sotto la questione del 41 bis e il carcere tutto. Ecco, questo secondo obiettivo invece, a mio avviso, fu realizzato, perché poi questo libretto servì nelle discussioni successive, fu portato molto in giro per l'Italia. Gli interventi erano di qualità. Charlie Barnau, che avevamo conosciuto qualche tempo prima, aveva sviluppato oramai da diversi anni una sua ricerca sulle torture, le diverse accezioni della figura della tortura dentro l'ambito militare e dentro le macchine repressive, tra questi il carcere. Kalitza, a partire da una sua esperienza di detenzione in regime speciale e dagli studi che durante la carcerazione aveva sviluppato, riferiva una serie di passaggi interni al carcere, sostanzialmente l'estensione del 41 bis ad altre tipologie, oltre a quelle inizialmente individuate dal legislatore, e i meccanismi di funzionamento e il vissuto reale di questa condizione detentiva, come della condizione detentiva nei regimi speciali, all'interno di una iscrizione più generale che faceva capo alla categoria del diritto del nemico. Ecco, questo rimane a mio avviso un discorso molto interessante. Rispetto ad allora, secondo me c'è da aggiungere un'articolazione ulteriore, ed è quella della categoria del terrorismo domestico, che proviene in buona sostanza dagli Stati Uniti e sempre più ricorre per qualificare una serie di situazioni di lotta, di azioni, addirittura a livello dello scontro di piazza. Ecco, è un passaggio che a mio avviso merita di essere ripreso e approfondito. È una delle piccole novità rispetto al periodo in cui fu tirato insieme questo libro, che sostanzialmente voleva essere un instant book, un qualche cosa che servisse nell'immediato. Infatti fu realizzato molto, molto velocemente, pur essendo ben curata, però contiene degli spunti che continuano a mio avviso a rimanere validi. Ecco, la Pintus articolò il suo intervento intorno soprattutto alla questione della Costituzione, dei principi di garanzia previsti dalla Costituzione e dal sistema gerarchico che dovrebbe reggere le tutele, gli interventi amministrativi e quant'altro. Ecco, anche di questo riferimento oramai resta proprio il torsolo sempre più morsicato. La cronaca di queste ultime settimane, tra decreto sicurezza, nuova legiferazione d'urgenza sulla questione immigrazione sotto la copertura della più recente votazione a livello europeo, insomma, riduce ulteriormente proprio l'esistenza materiale di questo fondamento supposto dell'ordinamento italiano. Ecco, mi fermerei qui. Il libro è ancora a disposizione, ce ne sono ancora un po' di copie. Ci sono fortunatamente, e questo non era scontato, dei compagni giovani o giovanissimi che magari non l'hanno avuto per le mani e possono approfittarne stasera. Ecco, tu insomma, articola l'intervento come meglio ti sembra. Ovviamente ci saranno da fornire degli aggiornamenti sulla situazione di Cospito. Ti chiederei di riferire anche delle modifiche nella organizzazione complessiva del 41 bis, degli istituti a 41 bis, la loro riallocazione, e però se ti va di ragionare anche un po' su questa questione del diritto speciale dentro l'ordinamento costituzionale, che cosa ne è e ne resta di questa nostra così lodata carta costituzionale. Vado. Tanto spero che mi sentite, mi sentiate, anzi. Ok, allora, quindi buonasera a tutti e a tutte. Intanto mi scuso per non essere stata comunque fisicamente lì con voi. Ho tentato, considerate sempre il fatto che io vivo in un'isola, questo è il bello e il brutto dell'isola, cioè avere la possibilità di spostarsi effettivamente quando si vuole, ma prevalentemente non quando si deve. Quindi questo è, e purtroppo le problematiche sono proprio tante. E proprio da questo magari mi ricollego, diciamo che farò un po' un intervento che forse non è un intervento proprio lineare, però magari con qualche flash su quello che mi è stato appunto chiesto, e poi anche quelli che sono magari i miei pensieri su quello che è la situazione attuale. Mi ricollego alla prima cosa che ho detto, cioè il fatto di non potermi ovviamente spostare così facilmente, così velocemente. Questo è uno dei diritti che viene negato ai ragazzi e insomma ai signori, o comunque a coloro che vengono poi portati detenuti nelle nostre carceri, che sono appunto le carceri della Sardegna. Perché però dico prima di tutto questo? Proprio perché a fronte di quello che dovrebbe essere il diritto, uno dei diritti costituzionali, cioè non solo costituzionale, ma anche quello che viene ritenuto da parte della normativa ordinaria, il fatto della territorialità della detenzione, stiamo vivendo invece un momento storico, lo è sempre stato, perché ci sono sempre state le cosiddette deportazioni o comunque isolamenti appunto carcerari, facciamo uno fra tutti l'isola della Sinara, mia cara isola della Sinara, bellissima, però ovviamente un carcere bruttissimo, oppure parliamo anche delle altre isole che ci sono, ma prevalentemente questa è in questo momento storico la nostra Sardegna, cioè la mia Sardegna, sta subendo quello che può essere considerato come un assalto ai nostri istituti penitenziari. Dico questo perché così magari qualcuno di voi inizierà già a ragionare su quello che potrà essere anche un eventuale intervento, diciamo, dalla parte esterna, oltre che dai tecnici, che si è già, perché la lamentazione più grande che si ha in questo momento è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei detenuti che stanno o che arriveranno sull'isola sono ovviamente detenuti che vengono considerati di una certa di un certo spessore, diciamo, criminale, non usiamo termini troppo tecnici, e che verranno tutti collocati nei nostri istituti, perlomeno in 3 dei 10 istituti che abbiamo, però i più importanti, i più grossi, quindi quello di Bancali, Sassari, quello di Cagliari, Utta e quello di Nuoro, Vado e Carros, dove verranno prevalentemente collocati detenuti in regime detentivo speciale del 41 bis, quale è appunto quello dove si trova adesso Alfredo. Quindi in Sardegna sta già iniziando la mobilitazione, perché un istituto, quello di Nuoro, è stato completamente smantellato per iniziare i lavori e per dedicarlo esclusivamente a questo. Stamattina sono stata a Massama e i clienti che sono prevalentemente non sardi, anche se una buona parte della sezione, una sezione perlomeno è di detenuti sardi, però la maggior parte dei detenuti non sono sardi, mi hanno già detto che probabilmente i detenuti di alta sicurezza verranno trasferiti, verranno portati però altri detenuti sempre dalla penisola, come si suol dire, e verranno collocati anche loro qua in Sardegna. Quindi un primo diritto è quello che viene violato, è quello di allontanare, o comunque il diritto a mantenere rapporti familiari e quindi a mantenere quello che è il contatto con la regione perlomeno d'origine. In questo caso in Italia sicuramente non si ha, ma non si ha non soltanto in Sardegna ma in tutta Italia, perché la maggior parte dei detenuti che hanno una certo spessore criminale viene comunque spostato dalla regione di origine e viene mandato il più lontano possibile, mentre la normativa prevede 100 chilometri, non più lontano dei 100 chilometri, insomma, da casa. Questo è uno dei tanti, insomma, uno dei diritti che volevo appunto evidenziare all'inizio, proprio per dire che la difficoltà che incontro io, figuratevi le difficoltà che incontrano i familiari nel doversi recare a fare visita, quindi il cosiddetto colloquio, che ovviamente tutti aspettano in maniera anche, insomma, importante e anche con un grande patema d'animo, che comunque non si ha, proprio perché la distanza del mare, per me appunto, che vi è di mezzo, comporta un'ulteriore distanza, un altro aggravio di costi e anche di stanchezza dal punto di vista anche mentale e fisica. E quindi, insomma, diciamo che dei diritti dal 2023, se dobbiamo fare appunto un aggiornamento a quello che è stato il nostro intervento, comunque il mio intervento nel 2023 in quella riunione, diciamo che gli aggiornamenti non sono sicuramente positivi. Partiamo da quelle che sono appunto le riforme che sono in atto, che sono state attuate o che loro, ovviamente chi sta al governo, che ci governa, spera di attuare, che sono tutti questi, che sono stati appunto citati comunque, tutti questi pacchetti sicurezza o comunque legislazioni di urgenza che sono state già però rese, perché ricordiamoci che da quando è in Da quando è in carica questo governo, sono state praticamente emanate, non vi dico quanti decreti di legge e decreti pacchetti sicurezza, tantissimi decreti legge, tantissimi, con normative e modifiche di norme sia ordinarie che non, in maniera, non dico che ormai, ogni giornata troviamo appunto una norma diversa, però quasi. E quindi vi posso dire che diventa molto difficile anche da parte nostra, ma soprattutto dei giuristi in senso tecnico. Poi da parte nostra, che siamo coloro che le mettiamo praticamente o che cerchiamo di metterle in atto, sta diventando veramente difficile stare al passo di quella che è la modifica normativa. Tra le tante, le cose più bizzarre, perché io le chiamo bizzarre per non dire che sono veramente abominevoli e soprattutto che fanno veramente pensare e ci fanno veramente preoccupare. Una delle tante, l'ultima è quella rappresentata dalla possibilità per gli agenti, appunto, all'interno degli istituti penitenziari dell'utilizzo della spray al peperoncino, ovviamente come per neutralizzare quelle che magari sono nel momento in cui ci sono delle sommosse o comunque dei disordini, può essere utilizzato anche lo spray al peperoncino, a quanto pare ormai da parte degli agenti e da poco una circolare, appunto, ha già insomma dato l'autorizzazione agli agenti. Ricordiamo che le circolari sono quelle norme, o perlomeno sì, quell'insieme di norme che vengono emanate da parte dell'amministrazione penitenziaria o comunque da parte di un organo che servono però interne all'organo stesso nel quale vengono emanate, in questo caso emanate dal DAP per l'amministrazione penitenziaria, quindi le deve eseguire, e quindi ogni circolare detta praticamente quelle che sono le regole che devono essere seguite all'interno dell'istituto penitenziario, e questo con buona pace anche della magari violazione di quelle che sono le norme invece, appunto, sia costituzionali che anche di legge ordinaria, che magari vengono violate proprio in considerazione. Evidente che anche l'introduzione di quello che può essere considerato insomma il niente, non so se mi sentite perché mi vedo ferma. Adesso ho ripreso, quindi probabilmente adesso mi sentite. Dicevo, anche una norma del genere, evidentemente, non è sicuramente, non ci può far che preoccupare, in considerazione del fatto che l'introduzione invece di quella che era la body cam, che insomma, appunto la telecamera, installata sulle divise. A quanto pare verrà forse messa in atto a breve, però viene data praticamente la discrezionalità, non solo ovviamente di questo, non parlo solo degli agenti, ma parlo degli agenti della polizia penitenziaria, ma parlo anche della polizia insomma che sta su strada. A quanto pare vi è data la possibilità di attivare la telecamera nel momento in cui si ritiene opportuno. E con questo capite bene che se vi è un'azione insomma un po' concitata, un conto è che la telecamera sia già accesa dall'inizio, quindi riprenda tutto, un conto invece è che la telecamera venga accesa discrezionalmente da parte dell'agente nel momento in cui magari ritiene che quel determinato video può essere fatto e quindi quella determinata azione può essere ripresa, mentre tutto il resto viene quindi lasciato al buio, come è sempre stato e come continua insomma ad essere. Quindi diciamo che comunque di quelle che sono le novità, ripeto, dal 2023 ad oggi, di buone fondamentalmente non è che ce ne siano molte, anzi io ritengo che dal 2023 ad oggi di novità importanti possono essere proprio contate, forse neanche sul palmo di una mano, se però riduciamo quelle che sono, che riguardano sempre aspetti costituzionalmente tutelati dei detenuti in regime al 41 bis. Dal 2023 ad oggi possiamo dire di aver ottenuto qualche piccola vittoria, ma esclusivamente in campo, insomma, ovviamente del diritto interno, e stiamo parlando di quelle sentenze della Corte Costituzionale, quindi la Consulta che finalmente a poco cerca di darci ragione per quanto riguarda quello che è il regime così duro e così rigido del 41 bis, una fra tutte quella che è stata resa nel 2025. La sentenza della Corte Costituzionale con la quale appunto dopo che è stata sollevata da parte di un mio assistito qui al 41 di Bancali, la questione relativa alle ore d'aria. Ricordiamo e rammento ovviamente a me stessa che i detenuti in regime 41 bis per almeno dal 2009, però parliamo del 2009 perché è il momento in cui è stato comunque aggravato ancora di più il regime, se così si possa dire addirittura anche più aggravato, però così è, almeno dal 2009 fino al 2018 avevano la possibilità di fare esclusivamente un'ora d'aria, di trascorrere solo un'ora d'aria, quindi un'ora in quello che viene considerato il passeggio, e tutte le altre 23, perché poi, anzi 22, perché poi una era la possibilità comunque di fare un'ora di saletta, cosiddetta socialità, c'è sempre stata, quindi per le altre 22 ore doveva rimanere all'interno della camera di pernottamento. Nel 2019 finalmente la Corte di Cassazione, quindi sempre tramite però delle pronunce dei giudici, sempre tramite comunque l'impulso che viene dato da parte dei detenuti, ovviamente supportati dagli avvocati, perché altrimenti comunque lo Stato non ha nessuna intenzione di mollare, diciamo, quelle che lui chiama le maglie del 41. Quindi nel 2018 è stata data la possibilità dal 2018 di iniziare a effettuare non solo un'ora d'aria, ma 2 ore d'aria, in considerazione del fatto che sempre in quell'anno viene modificato anche un articolo importante dell'ordinamento penitenziario, che è l'articolo 10, relativo proprio alla fruizione delle ore d'aria da parte dei detenuti, qualsiasi tipo di detenuto, in qualsiasi tipo di regime sia collocato. Fino a quel momento, quindi da quel momento 2 ore d'aria, insomma, in maniera un po' discontinua e non sempre precisa e neanche tutte insieme, perché non tutti gli istituti si sono adeguati in maniera, insomma, omogenea. Dal 2018 arriviamo al 2025, quando effettivamente la consulta ritiene che anche il detenuto in regime 41 bis, salvo che non vi siano altre restrizioni di natura, non so, cautelare, di natura relativa ovviamente all'ordine e alla sicurezza interna dell'istituto, oppure non sia già sottoposto anche a quello che è il regime del 14 bis, quindi alla sorveglianza speciale, perché ricordiamo sempre che chi è appunto in regime 41 bis, nonostante abbia tutte queste limitazioni, può essere sottoposto anche a quell'altro regime particolare molto molto restrittivo, che è quello considerato denominato appunto sorveglianza particolare, ed è quello del 14 bis, dove praticamente il detenuto non ha possibilità di fare fondamentalmente niente, e solo in quel caso le 4 ore possono essere limitate. Dal 2025, quindi è praticamente fresca fresca questa sentenza, si è iniziato, insomma, a avere questa possibilità, però non tutti ovviamente, non tutti gli istituti, perché non tutti gli istituti dove ci sono le sezioni del 41 bis hanno la possibilità di consentire ai detenuti di fruire delle 4 ore. Quindi Bancali è stato il primo perché, come ben sappiamo, ha una struttura tutta particolare, nel senso che ogni gruppo, ogni sottogruppo ha un proprio passeggio riservato. Quindi i 4 detenuti che stanno nello stesso gruppo di socialità hanno il loro piccolo passeggio. Non hanno quindi la necessità di turnare con gli altri detenuti, turnazione che invece è prevista in tutti gli altri istituti detentivi, proprio perché detentivi dove ci sono appunto le sezioni del 41 bis, proprio perché sono strutture che non sono dedicate esclusivamente ai detenuti al 41 bis, ma nascono come sezioni, diciamo, di persone di comuni, quindi oppure di AS, quindi sezioni di un carcere detentivo normale, e che quindi poi sono state invece mutate e quindi trasformate in sezioni del 41 bis, e allora non esistono però i passeggi singoli. E quindi bisogna appunto ruotare, e con la turnazione viene più difficoltà nel dover portare i primi quattro detenuti della stessa area di socialità a passeggio per 4 ore. Poi bisogna fare ovviamente tornare in camera, poi portare gli altri 4 e così via, fino a quando non si riesce a far tornare tutti i detenuti di quel determinato istituto. Quindi la difficoltà è un aggravio nell'aggravio, e solo recentemente hanno iniziato a fruire di queste 4 ore anche altri 3 o 4 istituti, fermo restando che tutti gli altri istituti sono bloccati, sono fermi alle 2 ore. Quindi, nonostante la consulta si sia espressa dicendo che i detenuti a regime 41 bis avrebbero in ogni caso diritto, o meglio, scusate, non avrebbero, avevano già diritto, perché nel momento in cui si esprime la Consulta dichiarando incostituzionale una norma, quella norma deve essere ritenuta incostituzionale sin dal momento stesso in cui è nata. Quindi, sin dal 1993-92, questa norma doveva essere ritenuta incostituzionale. Ciò nonostante, siamo al 2026, i detenuti che non si trovano a Bancali, non si trovano, perché adesso è iniziata anche a Cuneo, non si trovano all'Aquila, perché è iniziata anche all'Aquila a fargli fare le 4 ore. Chi si trova in tutti gli altri istituti dove vi è appunto il regime del 41 e chi è sottoposto a questo regime negli istituti differenti da quelli appena citati, non ha diritto, o meglio, non usufruisce ad oggi, nonostante sia decorso quasi un anno dalla pronuncia della Consulta, non usufruisce di quelle che sono le 4 ore d'aria, con tutta una serie ovviamente di conseguenze, perché ricordiamoci che andare all'aria aperta non è uno vizio che vuole prendersi, o uno sfizio che vuole prendersi il detenuto, ma è riuscire ad avere quella sorta di intanto aria che non guasta mai, aria che non è aria stagnante della cella, ma è aria esterna, quando ovviamente si riesce, perché ricordiamoci che ci sono sempre comunque le rette fittissime sopra la testa, quindi non è aria limpida anche lì, però comunque è aria, è l'esterno della propria camera di pernottamento. E che quindi si riesce magari ad avere anche quelli in più che dovrebbe aversi, cioè ricordiamoci che i detenuti, quasi tutti, ma soprattutto quelli in regime detentivo speciale del 41 bis, sono tutti carenti di vitamina D, perché la vitamina D si assume, è vero, con le pastiglie, perché loro sono infatti tutti sottoposti a pastiglie, a cicli di terapia proprio per questo, ma prevalentemente con la luce del sole, cosa che non avviene, cioè la luce diretta ovviamente loro non l'hanno mai, neanche quando vanno all'aria, però quantomeno l'aria, insomma, cioè andare al passeggio e usufruire di 4 ore piuttosto che due, almeno dal punto di vista psicologico, fa una bella differenza. Quindi queste, diciamo, che possono essere considerate le novità del 41 dal 2023 ad oggi. La corrispondenza, forse della corrispondenza ne avevamo già parlato, stiamo parlando del fatto che non doveva essere, viene ritenuta incostituzionale, diciamo, la sottoposizione al controllo, però soltanto per quanto riguarda il telegramma, perché si parlava solo di quello del telegramma, e quindi con il difensore, mentre la corrispondenza, come ben sapete, penso che insomma starete magari anche leggendo quello che avviene anche qui ovviamente da noi a Bancali, la corrispondenza per il detenuto al 41 bis è veramente una lotta dolente. Se andiamo nello specifico di Alfredo, solitamente su 5 lettere che riceve, 4 e mezzo, perché l'altro mezzo forse diciamo che non le trattengono, so, vengono trattenute per i motivi più disparati ancora ad oggi, non, quello non è cambiato per niente, cioè le lettere le trattengono a prescindere, trattengono lettere, trattengono cartoline. L'ultima cartolina che è stata insomma sbloccata, perché ovviamente il tribunale ha ritenuto che, a differenza del magistrato che aveva considerato, diciamo, il disegno che c'era, addirittura un disegno sovversivo dell'ordinamento, insomma, quindi che andasse contro quelli che sono i nostri principi nazionali, il tribunale di sorveglianza ha ritenuto invece che non vi fosse nessun tipo di pericolo in una lettera, o meglio nella cartolina inviata ad Alfredo, e quindi ha disposto lo sblocco. Ora bisogna vedere quando, perché passerà almeno un paio di mesi per poterla ricevere, perché poi, da che l'amministrazione penitenziaria si convince a consegnarla, passano altri 2 mesi, con tutto quello che ne comporta. Quindi diciamo che dal punto di vista della corrispondenza per Alfredo non è cambiato niente. Dal punto di vista poi di quello che invece è uno degli argomenti a lui più cari, cioè la lettura, è cambiato ben poco lo stesso, perché ogni volta che lui chiede di acquistare dei libri, viene sicuramente bloccato, o comunque l'amministrazione tergiversa con varie scusanti, come al solito il fatto che siamo in Sardegna, quindi alcuni libri non arrivano in Sardegna. Questo forse ormai ve l'ho detto più volte, questa è sempre la scusa che viene data per tutto, e non è soltanto però una scusa per i libri, ma è una scusa in generale quando c'è qualcosa che non si vuole far acquistare qua, appunto in Sardegna, si dice siamo in Sardegna e non arriva. Quindi questa è una delle tante, oppure non si trova nel catalogo, oppure comunque non è una lettura consentita perché non rientra in quelle che vengono elencate nell'elenco appunto che vengono date. E quindi ormai Alfredo ha preso, non la mano perché quello non la prenderà penso mai, però ormai ha preso l'abitudine di prima magari ci vediamo e poi mi dice bene adesso insomma sto aspettando troppo per ricevere questi libri, scrivo, e quindi scrive magari 3 righe, perché diciamo che i suoi reclami non è che siano molto argomentati, però le 3 righe che scrive nelle quali dice scusate, io cioè al magistrato gli dice qua comunque non è sicuramente una situazione che può essere considerata dignitosa e soprattutto non è consono a quello che voi ritenete lo stato, e quindi ogni volta insomma andiamo davanti al magistrato per essere autorizzati o comunque per far sì che venga redarguita l'amministrazione penitenziaria per la consegna di libri. Cosa succede? Che la maggior parte delle volte, quando a ridosso di 2 o 3 giorni prima, diciamo, delle udienze, i libri vengono consegnati magicamente e inspiegabilmente. Qualche volta no, e quindi poi andiamo di nuovo davanti al magistrato, perché a fronte della non solo dell'inerzia iniziale, ma anche quella successiva, la mancata ottemperanza di quelle che sono i provvedimenti che vengono emessi da parte del giudice a favore di Alfredo, fa sì che noi comunque andiamo di nuovo davanti al giudice. Dice per dire che l'amministrazione rimane ancora ferma. E questo è stato anche qualche settimana fa, perché effettivamente 4 libri, non 4 titoli di libri non piacevano, l'amministrazione penitenziaria si è come al solito scusato difesa dicendo che comunque vi è difficoltà nel reperirli, e poi anche vi è difficoltà perché nel momento in cui si acquistano i libri bisogna leggere cosa c'è scritto, bisogna vedere e bisogna censurare se per caso c'è qualcosa che non è consono. Ma ovviamente noi stiamo parlando di libri che vengono scritti e vengono comunque pubblicati a livello nazionale, quindi non è un libro diretto o comunque scritto di pugno da una persona che la manda direttamente ad Alfredo, ma sono libri che sono libero commercio. E questo è un problema molto, molto serio, è un problema molto serio. Nell'ultimo mese, insomma, diciamo che alla fine Alfredo si era un pochettino seccato, in una delle ultime udienze, insomma, ha proprio rappresentato al magistrato che alla fine avrebbe preso insomma delle iniziative, perché sicuramente una carcerazione in questo modo non era possibile, perché impedire comunque a una persona di leggere e di mangiare quello che è il sapere, perché lui dice io questo voglio, perché se chiedo invece di acquistare un cibo piuttosto che un altro, quello mi arriva subito, se chiedo un libro, il libro non arriva mai. Quindi anche queste piccole, ovviamente queste sono lesioni a parte del diritto fondamentale, di quello del diritto alla cultura, ma del diritto costituzionalmente tutelato e garantito. Noi questo ovviamente lo rappresentiamo sempre, e ciononostante continuiamo comunque a lottare per questo. Dal 2022 ad oggi non è cambiato niente, diciamocelo, per quanto riguarda la situazione detentiva di Alfredo, così vi do appunto gli aggiornamenti. Nel 2022 li applicano il 41 a maggio, siamo al 2026, la prima applicazione è 2004 anni, quindi presumibilmente a maggio 2026 si rifaranno sentire. Temo che i chiari di luna non siano proprio a favore del fatto che le venga revocato il regime prima, o addirittura non prorogato, anche se comunque quando siamo andati comunque a discutere davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che è l'unico appunto competente e deputato per quanto riguarda i reclami contro il regime del 41 bis, il procuratore aveva appunto detto che secondo lui Alfredo poteva essere collocato tranquillamente in un regime di AS2. cosa che non è accaduta, sappiamo benissimo, infatti lui è ancora in regime 41 bis, ora vedremo un pochettino se invece prenderanno coraggio a collocarlo in un regime di AS2, che poi in realtà nel momento in cui dovesse essere revocato il 41 Alfredo non passerebbe in AS2 ma diventerebbe AS1, che sono appunto il regime subito dopo il regime del 41 bis, cioè tutti coloro che non sono stati, ai quali appunto è stata o revocata oppure non è stato rinnovato il regime, vengono messi nel circuito degli AS1, e quindi lui presumibilmente andrebbe in quel circuito per poi magari dopo un tot di tempo passare probabilmente in AS2, perché i reati per i quali lui è stato condannato rientrano nel circuito degli AS2. E questo è. E poi per quanto riguarda ovviamente il 41 bis, diciamo che novità non ne abbiamo, se non il fatto che, come vi ho già detto, presumibilmente tre istituti su 10, vabbè, 10 comprese anche le colonie, saranno quelli della Sardegna, e poi verranno probabilmente chiusi altri, verranno chiusi qualche istituto, diciamo che dovrebbero diventare da 12, passerebbero probabilmente a 7, accorpando alcuni istituti, non creandone nuovi, però adibendo degli istituti già esistenti a sezioni esclusive al 41 bis, non ovviamente riducendo il numero dei detenuti al 41 bis, questo assolutamente. Ricordiamo, poco fa infatti trovo lo spunto anche su questo, poco fa è stato anche citato o comunque paventata questa ipotesi, ricordiamoci che con i nuovi pacchetti sicurezza, con i nuovi reati insomma che sono stati ipotizzati e che probabilmente passeranno, entreranno in vigore, il regime potrebbe essere esteso anche ad altre categorie appunto di soggetti, non soltanto a coloro per i quali, o comunque che hanno dei reati per i quali insomma questo regime è stato creato, è stato ipotizzato. Quindi diciamo che si sta già verificando comunque l'ampliamento e l'allargamento, chiamiamolo così, di persone, cioè dell'applicazione a persone che effettivamente prima non avevano, allora stiamo parlando per esempio dei turchi, sì, che sono stati già inseriti per esempio all'Aquila, abbiamo anche degli albanesi adesso che sono stati già collocati in regime 41 bis, parlo di nazionalità differenti perché in realtà fino a poco tempo fa non si avevano queste, cioè il 41 bis era dedicato esclusivamente a ovviamente persone italiane della bassa Italia, cioè siciliani, campani, calabresi, pugliesi, qualche insomma romano che di etnia, però anche rom, quindi non solo romano, però che insomma una collocazione un po' differente. Però nessuno straniero, ora stanno iniziando anche con gli stranieri e mo vediamo un pochettino perché, ripeto, questi nuovi reati hanno comunque più una valenza più sul punitivo, però pesante, che non insomma dei reati ordinari, dei reati comuni. Non mi ricordo più se c'era un'altra domanda, però nel caso magari me la fate, se per voi può andare bene così magari capisco anche. Bene, mi sente? Sì. Grazie mille intanto della sua disamina, dell'intervento, e direi che apriamo le domande, così che poi vediamo di chiudere questo pezzo. È previsto dopo, perché da quando Alfredo ha iniziato questa sua lotta contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo, come si è detto, ci sono state una serie di iniziative a supporto dall'esterno in Italia e fuori, le quali hanno avuto poi come dire i loro strascichi, le loro poi diciamo sono diventate a loro volta una questione degli oggetti della repressione e della persecuzione giudiziaria. Quindi dopo daremo un po' magari un aggiornamento anche su questa cosa qua. Adesso vediamo di seguire insomma quello che è stato detto finora con degli interventi, se ci sono degli interventi adesso dalla sala. Ciao, sono la Steffi. Ciao Maria Teresa. Volevo chiederti meglio di capire quando, cioè come si svolge questa proroga, quando è che diranno qualcosa? Nonostante tutti gli studi che abbiamo fatto su 41 bis non mi ricordo bene quali sono i termini, quando è il momento in cui ci diranno qualcosa, insomma, in cui scatterà questa richiesta. Grazie. Okay. Ciao, buonasera. Allora, sì, no, fondamentalmente funziona così. Il decreto ministeriale viene messo sempre da parte del del ministro dell'interno, dal ministro della giustizia, poi adottato col ministro dell'interno, però viene firmato sempre dal ministro della giustizia. Viene emesso, viene comunque comunicato al detenuto. La prima applicazione è così, fondamentalmente. Le seconde, cioè le proroghe, sono queste. Cioè viene praticamente scritto il decreto da parte di non si sa chi, sicuramente non è il ministro che lo scrive, lo firma solo, lo firma e lo comunica al detenuto. Ora, io non mi ricordo esatto la data, perché lui poi è arrivato qualche giorno dopo qua in Sardegna, nel senso che al 41 l'hanno collocato poi al 41 qui a Bancali qualche giorno dopo, quindi io ovviamente l'ho visto qualche giorno dopo. Adesso però la data esatta non ricordo, però facciamo che sia il 20 di maggio, lui o il 20 di maggio, proprio il 20, viene comunicato che il nuovo, cioè il decreto, o se il 21 lui non ha il decreto, lo prendono proprio gli agenti, lo spostano immediatamente, perché vuol dire che non è stata prorogata. Se invece vi è la revoca, perché non vuol dire quindi che viene insomma prorogato, comunque se invece ve la revoca anticipata, qualche giorno prima gli viene dato un altro decreto, due righe, nelle quali si dice che insomma non si ritiene, viste tutte quelle che sono le informative date dalla DDA, DNA, DIA, Comando dei Carabinieri, insomma tutti quelli, perché sono questi gli organi preposti insomma a dare le informazioni, visto che si ritiene che non ci sia più la pericolosità, e quindi le danno il decreto e lo mandano subito via dalla sezione. Potrebbe invece arrivare comunque anche la proroga, non abbiamo fatto ipotesi che sia il 20 di maggio, non il 20 maggio, ma anche il 15 maggio, il 16 maggio, cioè può anche essere anticipato, diciamo, la proroga, però mai posticipata, perché altrimenti sarebbe comunque una detenzione illegittima, oltre che illegale, o perlomeno in quella sezione. Non c'è niente di più. Nel momento in cui arriva la proroga, se dovesse appunto arrivare la proroga, comunque nel momento in cui arriva la proroga, i passaggi successivi sono sempre gli stessi. Entro 20 giorni occorre impugnarlo, si impugna, si fa quindi il reclamo va presentato sempre davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, perché dal 2009 si è ritenuto da parte di non so chi, ovviamente da parte di chi, sempre il governo, ha ritenuto che fosse necessario per la decisione standardizzarle, le decisioni, uniformarle, e quindi ci fosse solo un unico tribunale di sorveglianza deputato per questo, e è stato deputato il Tribunale di Sorveglianza di Roma, mentre fino al 2009 il tribunale competente era appunto il Tribunale di Sorveglianza, dove era detenuto il soggetto, insomma. Perché in realtà la normativa, quella ordinaria, prevede questo, cioè il magistrato competente è sempre il magistrato nel quale ha dell'ufficio giudiziario, del circondario, o meglio del distretto, dove è collocato il detenuto. Quindi nel caso per esempio di Alfredo in questo momento sarebbe dovuto essere, o meglio è come tribunale, come ufficio di sorveglianza, competente per qualsiasi cosa relativa alla detenzione di Alfredo, è quello di Sassari, mentre invece per quanto riguarda il 41 bis è sempre Roma. Ed è Roma per tutti, e questo è stato appunto creato, ripeto, nel 2009, proprio perché, perché fino al 2009 parecchi, non tantissimi, però parecchi detenuti che venivano collocati in regime 41 bis e invece facevano appunto il reclamo, venivano poi ricollocati in sezioni ordinarie perché il tribunale di sorveglianza al quale si rivolgeva, conoscendoli forse in maniera un po' più diretta, nel senso che magari durante l'anno nel quale appunto erano collocati in regime veniva fatto un reclamo, oppure venivano appunto venivano fatti dei colloqui anche con il magistrato, che comunque riusciva a comprendere chi era effettivamente la persona che aveva davanti e che probabilmente non doveva essere collocato in quel regime. Cosa che invece non avviene adesso, perché si va davanti a un tribunale di sorveglianza di Roma che non conosce ovviamente il detenuto, se non per quelle che sono le carte che gli vengono mandate, ma soprattutto le informative che gli vengono date, ripeto, da parte della PG, quale la DIA, la DNA, la DDA, la DNA, insomma, quindi tutti questi organi che ovviamente non fanno che riportare quella che è la cronaca giudiziaria e quindi un passato di criminalità o di delinquenza che magari è già stato anche scontato abbondantemente, però questo è, e quindi il magistrato di sorveglianza, o meglio scusate, il Tribunale di Sorveglianza di Roma si trova davanti al curriculum criminale della persona e non fa altro che quindi dire che effettivamente la persona è pericolosa e deve stare al 41. Buonasera, no, volevo chiedere una cosa. Prima lei ha detto che Alfredo su 5 lettere, 4 lettere e mezzo non le arrivano. Ecco, siccome c'è da qualche mese a sta parte partita una maratona, giusto, per scrivere ad Alfredo, lui è innanzitutto è al corrente di questo e se lo può dire, ecco, innanzitutto. E nel caso queste 4 lettere e mezzo, lei conferma che quindi questa maratona la stanno rendendo quasi inutile? Buonasera. Buonasera. No, allora, intanto premetto, io ho detto 4 lettere e mezzo per essere simpatica, nel senso che su 5 effettivamente, non dico che gliele trattengono tutte e 5, ma praticamente tutti e 5, poi gliele sbloccano, però all'inizio, cioè, funziona così, non so se vi ricordate. Allora, le missive arrivano all'istituto, quindi c'è una prima scrematura da parte dell'ufficio censura. L'ufficio censura, che è l'ufficio appunto deputato per leggere quella che è la corrispondenza dei detenuti al 41 bis, legge le lettere. Se ritiene che le lettere, o magari nel caso di Alfredo, sono prevalentemente cartoline, se non ho capito male ormai, però legge le lettere o legge le cartoline, se ritiene che ci sono qualsiasi, c'è una virgola che non piace o che possa essere pericolosa o che comunque possa celare qualsiasi tipo di messaggio criptico o messaggio che insomma che comunque non doveva essere riferito a Alfredo, blocca la lettera. Quindi blocca la lettera e manda la lettera al magistrato di sorveglianza competente per Alfredo. Il magistrato di sorveglianza, che ci mette parecchio anche, perché di solito non è che risponde velocemente, anzi risponde purtroppo anche dopo mesi, legge le lettere e se ritiene che nelle lettere non ci sia niente, Alfredo, vengono date subito le lettere ad Alfredo. Se invece ritiene che nelle lettere ci sia qualcosa di compromettente, come è stato con quest'ultima cartolina di cui vi ho parlato poco fa, questa cartolina che aveva questo simbolo 5G, non mi ricordo adesso bene, però ce l'ho, insomma, c'ho anche il provvedimento da parte del tribunale, se volete. Il magistrato ha ritenuto che in ogni caso fosse pericolosa, quindi che non dovesse essere consegnata a Alfredo perché aveva dei simboli che erano contro lo Stato, in questo caso ha detto questo, oppure altre volte scrivono solo che siccome sono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, praticamente prendono quello che è proprio di pari passo e trascrivono l'articolo 18 ter, e quindi cosa scrivono? Scrivono quello e lo mettono, quindi bloccano completamente la lettera, la possibilità di Alfredo, per Alfredo di avere queste lettere. Quindi a quel punto con Alfredo ormai anche lui, ripeto, due righe le scrive subito, così blocchiamo, perché poi ovviamente bisogna fare tutto entro 10 giorni da quando si ha il blocco. Facciamo quindi l'impugnazione, andiamo davanti al Tribunale di Sorveglianza, che però purtroppo anche lui fissa udienza almeno dopo 2 mesi, quindi queste lettere si riesce ad averle, perché solitamente comunque quelle di Alfredo le stanno sbloccando, il Tribunale però, quindi ripeto, dopo mesi, solitamente si riescono ad averle. Ritengo, per quanto riguarda l'altra domanda che mi ha fatto, che non è inutile, anzi è molto utile anche per Alfredo, perché comunque è un grande supporto, assolutamente, siamo consapevoli del fatto che ci sia questa maratona, siamo assolutamente sì, però tra quelle che le vengono consegnate dopo, trattenute, ripeto, non ce ne sono fondamentalmente, se non le lettere che contengono riviste, quelle non gliele danno mai, quelle ovvio, le riviste perlomeno non le danno, però una buona parte di queste lettere probabilmente non arrivano, ve lo dico proprio, nel senso che o non arrivano per la posta, siamo sempre in Sardegna, e qua però lo dico in senso dispregiativo, perché è vero che comunque ci mette parecchio la posta, oppure perché, non lo so, se tra 10 inviate 5 effettivamente vengono censurate, le altre 5 probabilmente finiscono nel tombino, non lo so. Quindi non so se voi avete, adesso lo dico così, se avete più o meno un'idea di quante sono le lettere che sono state mandate nell'ultimo mese, magari mi date un riscontro, io vi dico sì, sono arrivate tutte 100, oppure no, sono arrivate 3, e di cui 2 trattenute. Una domanda, no, mi senti? No. Sì, sì, sì. Si sente? Ah, sì, sì, sì, sento. Nel periodo in cui Alfredo ha interrotto lo sciopero della fame, si parlava di un ricorso alla Corte Europea. Un ricorso sì. Alla Corte Europea. Non so se ha avuto un esito e mi è scappato, oppure se... Sì, ha avuto un esito. Sì. Allora, premetto che il ricorso alla Corte Europea non l'ho curato io, l'ha curato, vabbè, ovviamente Flavio Rossi Albertini, il collega, e non mi ricordo l'altra collega, perché comunque fa prevalentemente Corte Europea. Non ha avuto un seguito per il semplice fatto che poi, ovviamente, avendo comunque ripreso ad alimentarsi, viva Dio, ovviamente, io dico così anche, avendo comunque ripreso ad alimentarsi e non essendoci più quei presupposti, perché si trattava comunque di un provvedimento chiesto con un provvedimento d'urgenza per l'articolo 39, non ha proseguito, non dico che è stato dichiarato irricevibile, però non ha proseguito, e quindi la Corte Europea non si è espressa. Ripeto, per la questione relativa alla salute, poi l'altra parte non è stata fatta, insomma. Io chiedo conferma di avere capito bene. L'eventuale decreto di proroga dell'assegnazione al 41 bis consisterà in 2 o 3 righe? Cioè non ha no. O ci sarà una motivazione più estesa? No, no, aspetta, no, allora, no, mi sono espressa male, scusate, io ho detto 2 o 3 righe per quanto riguarda la revoca del regime, non la revoca se viene fatta anticipata, perché se non viene soltanto prorogato non ci sono neanche le 2 righe che vi sto dicendo, le 2 righe sono nel momento in cui viene fatta una revoca anticipata, nella quale si dice, vista l'informativa XY, si ritiene che non ci sia più la pericolosità e viene collocato in un altro regime, basta. Se viene data invece la proroga, no, la proroga è di tante righe, la proroga è quasi quanto o qualche volta anche superiore come numero di pagine alla primo decreto applicativo. Mettono le stesse cose fondamentalmente, perché le informative sono quelle di base, quelle che si hanno per la primissima applicazione, poi vengono o amplificate o diminuite. Qualche riga in più per scrivere che magari negli anni c'è stato, in questi 4 anni comunque si è assistito a questo tipo, per esempio, anche di manifestazioni, perché questo sicuramente glielo metteranno. Se dovesse prorogare il regime, metteranno sicuramente come un in più per dire che lui è pericoloso il fatto che ci sono state appunto delle manifestazioni in suo favore, e quindi questo rappresenterà sicuramente un pericolo, o comunque rappresenta un pericolo, e quindi lui, visto che è così pericoloso, deve rimanere ancora al 41. Sicuramente indicheranno quello, così come indicheranno anche le condanne che sono state, adesso vabbè, quelle che sono ovviamente diventate definitive, perché quando c'è stata la prima applicazione vi erano anche delle condanne ancora non definitive, quindi mettono poi l'elenco delle condanne definitive, questo è, però il decreto fondamentalmente è quasi identico al primo. Grazie. Io avrei ancora una mezza domanda, visto che tu non segui solo Alfredo al 41 bis, se hai qualcosa che ti pare importante da dirci tra le tante situazioni che conosci, diciamo, senza fare mattina, però è quello, infatti, cioè, se mi dovessi dire qua la salute, perché non c'è tutela alla salute, ecco, questo sì, è proprio problematico. Ho detenuti lì proprio a Milano che hanno 90 anni in sedia a rotelle, un po' paralizzati, con problemi di salute molto importanti. Qui ne ho un paio che non hanno, uno ormai insomma non riesce proprio a capire neanche dove è collocato, stiamo parlando di un 80enne lo stesso, un altro che ha subito un bruttissimo intervento per un tumore abbastanza importante, adesso inizierà con la chemio, però dovrà fare un altro intervento per asportazione proprio di una parte. E stiamo parlando di persone che comunque, nonostante abbiano queste problematiche, essendo collocati in regime nel quale sono collocati, non hanno neanche purtroppo il diritto di poter essere messi in un istituto diverso, o comunque anche in detenzione, detenzione domiciliare speciale per gravi motivi di salute, perché sono 41. Ricordiamoci sempre i casi di Rina e... fino alla fine, insomma, sono rimasti lì e vengono purtroppo, è brutto da dire, ma vengono fatti morire in carcere. Questo è, quindi sì, non vi dico niente di nuovo, immagino, però la situazione della salute della salute dei detenuti al 41 bis è devastante. E poi tutte le altre limitazioni che hanno, che comunque, insomma, queste che vi ho detto oggi sono proprio le cose, non dico più evidenti, ma quelle più, purtroppo, più pesanti. Poi ovviamente la questione con i familiari, con i bambini che non li puoi, insomma, non li vedi, non li fanno venire, dopo i 12 anni diventi già adulto e quindi non puoi più abbracciare i tuoi genitori, il tuo nonno. C'è sempre il vetro a tutta altezza, che comunque non è più pensabile nel 2026, quando abbiamo le telecamere in qualsiasi punto della sala colloqui. Noi qui a Bancale abbiamo fatto una lotta perché hanno messo addirittura la terza telecamera per gli avvocati, cioè ne abbiamo tre telecamere, adesso una finalmente siamo riusciti a farla togliere, ma dobbiamo far togliere anche la seconda. Non è pensabile che si possano anche difendere in questo modo le persone con gli avvocati, che non dico sono intimiditi, perché ovviamente se uno fa l'avvocato deve avere anche un po' di peli sullo stomaco, però effettivamente tre telecamere dentro una stanza con tutte quelle che sono le perquisizioni che ci fanno, quello al quale veniamo anche insomma sottomessi. La cosa che non vi ho detto, però sicuramente questa lo sapete benissimo, è la segnalazione che ovviamente ho subito per aver salutato Alfredo con due baci, questo nel 2022-2023 ancora non c'era. Ho aperto due procedimenti disciplinari al mio consiglio di disciplina perché ho salutato Alfredo con due baci, cosa che ho sempre fatto dal 2022 fino all'altro giorno, però qualche agente ha ritenuto che fosse un qualcosa in più o di diverso, o comunque non rientrasse nei compiti difensivi quello di salutare il detenuto con due baci, e allora sono stata segnalata, insomma. Quindi cioè, parliamo insomma di tanta roba, però si andrebbe effettivamente avanti fino a domani mattina, quindi non so. Ne arriva un'altra, aspetta, eh. La videocamera vede se stessa, non vede la sala, peccato però, almeno che veda qualcuno. No, la sala, è peccato che parla, perché è la videocamera che vedi te stessa tu, non vedi la sala, no, la sala gremita. No, la sala no, la sala no. La però... sala è gremita, eh. Speriamo di no, che se... non la vedo, no. Meglio che non vedo comunque, che mi sento male. Vabbè, io avevo questa domanda, perché hai detto prima che abbiamo visto la settimana scorsa, 10 giorni fa, non so adesso di quando è la notizia precisa di questa ridefinizione del circuito 41 bis, che da 12 istituti diventano 7, vengono praticamente, se abbiamo capito bene, i detenuti a 41 bis vengono messi prevalentemente in aree insulari, quindi il grosso c'era la Sardegna, in istituti a loro dedicati con, diciamo, gestiti dai GOM, dei gruppi operativi mobili. Ora, che questa cosa avvenga con la motivazione di dar corso alla sentenza della Consulta dell'inverno scorso, che aumenta 4 ore d'aria, ci può stare. Però era già questo un orientamento che era già emerso nel pacchetto di leggi del 2009, che hanno completamente ribaltato, approfondito il 41 bis, con cui anche la centralizzazione delle decisioni di rinnovo e tutte nel magistrato tutte sulla magistratura di sorveglianza di Roma, che poi è emanazione del governo in diretta, diciamo. Lì dentro c'era stato espresso quell'orientamento, appunto, di destinare i detenuti a 41 bis in aree insulari, in istituti a loro dedicati. Quindi quella è sempre stata una volontà, diciamo, del governo, diciamo, delle parti dello Stato. Ecco, ora che questo venga fatto con una motivazione, perché manca in questo momento anche una ragione di allarme sociale su questo tempo, su questo tema, no, della criminalità, e che venga fatto per una ragione buona, tra virgolette, mi faceva strano. Volevo capire intanto chi è più interno al dibattito, cosa ne capisce, se è un po' una scusa per fare un passaggio che si voleva già fare, oppure una costrizione a cui il DAP si deve sottomettere. Dico anche questo perché per alcune carceri 41 bis posso anche capire, ma il carcere di Opera ha una sezione importante di 41 bis, quasi un centinaio di posti. Ora non credo che non riescano a gestire quel tipo di situazione di passeggi con i gruppi, con i mini gruppi da 4 in quella situazione, però li portano tutti a Vigevano, perché diventa il carcere di Vigevano della Lombardia, ok? L'unico carcere, tra l'altro hanno già cominciato i lavori, hanno già tirato giù il muro di cinta e tutto. E ci chiedevamo giovedì scorso cosa ne faranno della sezione 41 bis di Opera, in vista magari di una maggiore conflittualità e cose così, e viene da pensare che quella è una sezione dove sicuramente non sarà una sezione ordinaria, sarà una sezione speciale, magari per detenuti AS, magari per detenuti AS2, viene anche da pensare poi nel tempo. Poi, che non vengano applicate le condizioni del 41, ma tu sei dentro a una sezione a 41, dove comunque sei isolato, ti possono anche mettere in due dentro, però è tutto strutturato come il 41 bis. Quindi la domanda era se questo tipo di ridefinizione di circuiti fatta in tutta fretta per dar corso a quella cosa lì, oppure un disegno un pochettino, insomma, una volontà che collima con la volontà dello Stato. Ecco, e poi anche di queste nuove sezioni, se per la percezione che non ci sia una preparazione, diciamo, un po' in anticipo di come verrà gestita una conflittualità in maniera sempre differenziata, in maniera da isolare tutta una serie di diciamo prigionieri che provengono dalle lotte. Però adesso poi anche con il decreto, quello sull'antisemitismo e tutto, vieni recuperato col terrorismo, è un attimo che tu per una manifestazione per la Palestina ti ritrovi in circuiti AS che però in questo momento non ci sono così estesi. Ecco, finito. Allora, sì, intanto sì, no, non è fatto sicuramente per buonismo, quello di accorpare o di ridurre gli istituti, assolutamente, ed è comunque già, era già tempi addietro, era già previsto comunque anche la questione appunto insulare, ovviamente è previsto e insito nel 41 bis, lo dice proprio la norma, devono prevalentemente regioni insulari, quindi questa è l'unica isola che c'è, comunque la Sardegna, che se ne dica, ma non perché la Sicilia non sia isola, ma perché la Sicilia, avendo come patria, chiamiamo così, i mafiosi, ecco, quelle sono comunque le persone per le quali è stato creato anche il 41 bis, è evidente che lì non le metteranno mai, e non metteranno mai nessuno che è di quel sistema, anche se ci sono ovviamente certe sezioni dove ci sono, però non ci sono sicuramente le sezioni 41 bis. E l'aveva già pensato comunque anche i governi prima, di portare comunque i detenuti quasi tutti al 41 bis in Sardegna. Il problema è che adesso la Sardegna si sta un pochettino ribellando. Io sincera, l'unica preoccupazione che ho, a me dispiace molto, ripeto, per i detenuti che arrivano, più che altro perché le famiglie hanno grossa difficoltà ad arrivare qua in Sardegna. Poi per me, insomma, le sezioni sono, Sassari comunque è piena, cioè la Bancali, quindi non lo toccano, nel senso che non è che devono arrivare, perché poi Sassari diventerà tutta la struttura di Sassari. La struttura di Sassari rimangono i 90 che ci sono, la struttura c'è già, è separata ovviamente dall'altra ed è quella. Punto. Non è che qui non si fa anche, adesso non è che facciamo comunque informazione sbagliata come stanno facendo qua la politica, che si sta proprio movimentando in maniera errata anche. Sassari rimane così. Nuoro effettivamente, avendo mandato via tutti tranne 36 detenuti, di cui 6 sono già al 41, perché la sezione piccolina del 41 c'è già anche a Nuoro, gli altri che sono al Nuoro sono comunque comuni che probabilmente servono per fare i lavoranti, e quindi quelli li stanno lasciando lì, probabilmente una quarantina ne arriverà, perché più di 40 non riesce a metterli, perché quando un istituto di 100 persone, però 100 persone che sono 100 persone che possono stare comunque anche 4-5 dentro la stanza o in due dentro la stanza, se ne devi mettere 100 che sono esclusivamente con stanza singola, perché ricordiamoci che il 41 è la camera singola, su 100 posti allora ne diventano 50, i numeri sono questi, quindi devi per forza dividere due, e allora ne arriveranno al massimo una quarantina. E arriveranno a Cagliari, però a Cagliari dovevano arrivare contemporaneamente a quando sono arrivati a Sassari, solo che poi alla fine, perché la struttura è identica, non è sotterranea, però sempre 90 sono, ed era creata nello stesso periodo è stato creato il carcere, che quindi il carcere di Utta, il nuovo carcere, come il nuovo carcere di Bancali, sono stati tutti costruiti nello stesso periodo. Quindi tutti dal 2013 sono stati tutti aperti, tranne la sezione del 41 di Utta, che ancora non è finita a quanto pare, però finita, non finita il tutto, e adesso probabilmente a marzo o aprile si riuscirà insomma a riempire altri 90. Basta, in Sardegna saranno questi, perché non c'è altra possibilità, a meno che non facciano poi... sfollino anche gli altri istituti che abbiamo, come quelle però di Tempio e di Alghero, ma non è possibile che non lasciano più istituti con detenuti, né AS né comuni, e questo sarà. Gli altri istituti, sì, allora Opera verrà, a quanto pare anche noi hanno comunicato questo, anche Opera verrà insomma smantellato. A Opera comunque le 4 ore non le stavano facendo fino a poco tempo fa, pochissimo, e le stava facendo soltanto chi, pensate un po', chi è addirittura in area riservata, perché Opera c'è non soltanto il 41 bis, ma puoi essere messo anche in area riservata, e le stava facendo chi era in area riservata, che è assurdo. Quindi loro avevano più diritto degli altri di essere messi, di poter usufruire insomma delle 4 ore di passeggio. Dovrebbero quindi collocare appunto Vigevano, dovrebbero aprire, se non ho capito male, Vigevano, Alessandria, infatti Cuneo e Novara dovrebbero essere chiusi, e poi altri due o tre, non di più. Ricordiamoci però che per esempio L'Aquila è l'istituto dove ci sono maggior numero, l'istituto sì, in Italia dove ci sono maggior numero di detenuti al 41 bis, sono esclusivi, è nato come istituto solo per 41 bis, ci sono forse una ventina di comuni che sono prevalentemente stranieri, e sono i comuni che comunque sono i lavoranti, perché il 41 fondamentalmente non li fanno neanche lavorare, quindi ci sono solo 41. Questo è, vedremo un pochettino come andrà poi questa nuova ricollocazione, però non riguarda il fatto di poter fare o meno i passeggi con le 4 ore, figuriamoci se fanno qualcosa per agevolare insomma la vita detentiva dei detenuti al 41 bis, mi duole dirlo, ma non è possibile, non lo faranno mai secondo me, poi mi vuole suo parere. Se non ci sono altre... Sento. Sì, se non ci sono altre domande o altri interventi, potremmo passare al secondo punto. Quell'aggiornamento e quelle riflessioni, dove è finito? Sul procedimento penale relativo alla manifestazione, eccolo che arriva. Ecco, intanto ti ringraziamo. Se vuoi continuare a seguire, se vuoi intervenire, facciamo il contrario, le domande le fai tu. Ok. Sì, ciao a tutti. Nulla, io volevo solo fare un breve riassunto di quello che è stato appunto il processo e la repressione in seguito al corteo dell'11 febbraio qua a Milano. Credo che la maggior parte delle persone abbiano bene in mente di che corteo parlo. Era partito da 24 maggio e si dava come obiettivo quello di arrivare circa in Piazzale Lodi. Giunti pressoché a metà del corteo è stato chiuso dalla polizia e ne sono seguiti degli scontri con appunto ne sono seguiti degli scontri. La repressione su quel momento ha portato a dei fermi. Tutte quelle persone però sono poi state stralciate dall'inchiesta successiva, che ha portato invece a una serie di misure repressive intorno al mese di maggio, di giugno. Queste misure repressive prevedevano dei divieti di dimora con firme, degli obblighi di dimora poi tramutati in divieti di dimora dal Comune di Milano. A quel punto successivamente c'è stato un po' di... si è ripresa un po' la mobilitazione, però poi per molto tempo ha tutto taciuto finché non si è arrivato all'inizio del processo e alla conclusione del primo grado del processo, che ha visto delle condanne a mio parere alte, con una pena minima che va da un anno e sei mesi per il reato di solo travisamento e la pena massima che è di 4 anni e 7 mesi per reato di appunto... danneggiamento, resistenza aggravata e travisamento. Al momento si è nel limbo che passa tra la sentenza di primo grado e l'attesa e la fissazione dell'appello, che però non credo, mi smentisca l'avvocato, durerà troppo questo limbo, ovvero penso che verso la fine dell'anno, si potrebbe, anche temo prima, si potrebbe andare già al secondo grado. L'unica cosa che mi preme ricordare è che mi fa piacere vedere tanta gente stasera, e secondo me è un altro modo, è un altro momento che ricorda come quella mobilitazione ha portato tanto questo movimento, a questa città. È come mi ha fatto molto piacere vedere tanta gente al giorno dell'udienza, della sentenza del processo di primo grado. Secondo me questo potrebbe essere un modo per provare a rilanciare di nuovo una mobilitazione in città, riconoscendo i limiti e la ridimensionatezza forse di questo momento, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che in quei giorni, nel senso nel periodo che andava nel 2023, eravamo molto più spesso in piazza, eravamo molto di più, e in quel momento l'11 febbraio avevamo appena saputo che appunto Alfredo era stato ricoverato in ospedale. E questo aveva messo, secondo me, in campo delle emozioni e ci aveva fatto andare un po' oltre, appunto, tentare l'impossibile, come scrivete voi. E nulla, io volevo solo ricordare questo, volevo dire prossimamente cercare di rimanere il più aggiornati possibile, anche io come imputato e anche chi altro c'è come imputato, cercheremo di stare più attenti e ricordare di più gli appuntamenti legati a questo processo. E nulla, questo è quanto. Se l'avvocato vuole aggiungere qualcosa su motivazioni, altro, le lascio la parola. Se vuole, Se vuole. Eccomi. No, in realtà non ci sono notizie e novità, nel senso che l'unica cosa è che il ricorso è lì, giace in corte d'appello in attesa di fissazione. Poi è ovvio che abbiamo tutti delle aspettative su questo secondo grado, perché è stata talmente fuori da ogni previsione, anche dalle peggiori previsioni forse, l'esito del primo grado, che davanti a una lettura un pochino più razionale, anche solo oggettiva dei fatti, di quella resistenza lì, di come si è svolta, di quanto è durata, le pene sono partite per gente che davvero era ha fatto niente in questo caso, con pene ben superiori al minimo edittale, quindi siamo davanti a una sproporzione evidente. E poi non dico nient'altro perché sennò la gufo terribilmente, non sia mai, ecco, però ci sono degli argomenti, però possiamo solo aspettare. Comunque sì, è già stato registrato, quindi è questione di qualche mese al massimo arriverà la fissazione. Basta, sul processo non ci sono altre novità. Se vogliamo fare una riflessione, visto che nell'intervento iniziale si era parlato anche di diritto penale del nemico, diciamo che in questo processo ne abbiamo visto un'applicazione pratica, nel senso che, come si diceva, ci sono delle persone che veramente non hanno fatto nulla e sono state condannate sostanzialmente con la seguente frase: risponde di concorso morale anche chi contesta il corretto operato delle forze dell'ordine in una manifestazione. Il problema è che queste persone non hanno nemmeno contestato il corretto operato delle forze dell'ordine, erano semplicemente lì. Quindi diciamo che quello che è emerso è che non interessava tanto nemmeno l'applicazione delle leggi che ci sono, ma semplicemente quella di creare una sorta di colpa d'autore, cioè la presenza e quindi la condivisione di quel motivo che aveva portato alla manifestazione, di quell'ideale, di quella spinta, è stata ritenuta di per sé sostanzialmente meritevole di una pena, quindi un'applicazione ulteriore di una punizione non per quello che si fa, ma per quello che si è. Questo si lega un po' al discorso di Alfredo, perché sostanzialmente il 41 a lui è stato applicato anche per questo motivo, anche perché abbiamo visto che la sentenza che aveva, il procedimento che aveva generato il 41 nei confronti di Alfredo, era un procedimento in cui Alfredo interloquiva politicamente con altre persone, con delle lettere, ed era stato imputato di istigazione a delinquere. Questo processo si è concluso con una assoluzione addirittura in udienza preliminare, in cui il giudice ha letto le frasi e ha detto: queste frasi non sono un'istigazione a delinquere, ma sono una interlocuzione politica tra Alfredo e le persone che sono interessate, insomma, a quel tipo di tematica. Per cui anche lì si è vista non tanto una applicazione di una norma del 41 bis che dovrebbe, diciamo, servire a interrompere i contatti tra i sodali in libertà e la persona detenuta, ma semplicemente per le tematiche di cui si discuteva. Quindi diciamo che nella mobilitazione per Alfredo e nella situazione di Alfredo si sono viste queste due applicazioni, più che di diritto penale del nemico, proprio della colpa d'autore, cioè la colpa risiede in quello che si è e non in quello che si fa. Da ultimo volevo ricordare, diciamo, volgendo il discorso ad una riflessione più generale, si è parlato tanto di questo decreto sicurezza emanando, di quello che è stato emanato. È sempre da ricordare, più che altro, secondo me, la dimensione più importante è quella diacronica, cioè bisogna vedere dal 2001, quando si sono cominciati a fare i decreti sicurezza con il pacchetto Pisanu, fino ad oggi, come è cambiata la situazione. Perché se ci concentriamo sull'ultimo decreto, non si vede si può vedere il salto di qualità, ma non si vede il climax. E invece è il climax, proprio l'escalation, che è quella che dà la dimensione del cambiamento del salto repressivo, a vedere da quello che partiva. Basti ricordare, come puro esempio, che nel 2005 l'occupazione di un intero palazzo portò a condanne multe di 400 euro per coloro che furono condannati. Adesso l'occupazione di un appartamento così porta a condanne anche di un anno, insomma. Questo, e poi con tutte le varie leggi che sono intervenute, il vero salto di qualità si capisce solo se la si guarda in una prospettiva diacronica, non concentrandosi solo sulle singole norme che cambiano da un decreto all'altro. Ecco, queste sono riflessioni così slegate che mi sono venute vedendo un po' quello che è successo, perché così le butto lì senza nessuna organicità, tanto perché possano essere spunto. Diciamo, come giurista mi sembrava interessante vedere anche questo passaggio. Ti rendi conto che ti sei dato la palla in testa? Perché è sospesa nell'aria la revisione comprensiva di aggiornamento di un testo sintetico sulla legislazione eccezionale d'emergenza dal 74 fino a oggi. Quindi, a parte gli scherzi, d'accordissimo sulla necessità di questa visione ampia e, come hai detto tu, diacronica. Uno degli strumenti che vorremmo riuscire a produrre insieme, grazie al vostro aiuto, è proprio questo testo sintetico che fissa i vari passaggi, perché è la visione complessiva che restituisce la pregnanza della questione. Quindi diciamo, sei stato tu a dirlo, nessuno ti ha obbligato. Buonasera, io mi chiamo Andrea Crosignani, sono il medico che ha seguito Alfredo durante il periodo dello sciopero della fame e volevo dire che è stata un'esperienza che mi ha molto arricchito, una persona che nonostante fosse in una condizione di detenzione con i gomma attaccati è riuscita a farsi amare da me, che non lo conoscevo se non politicamente ma personalmente, e penso che abbiamo costruito con tutti i limiti della cosa un rapporto fatto di cose. Alfredo ha chiesto, la prima cosa che gli chiedevo era sempre come stai, e mi piacerebbe chiederglielo ancora. E quello che mi va di dire davanti a tutti, che gli mando un grosso abbraccio e che non sono stato ancora contestato per averlo salutato tutte le volte con un abbraccio e due baci. Beata lei. Va bene, arrivederci. Possiamo anche dare del tu, però. Sì, allora beato te. Io non so cosa dire, sono stata contestata questa volta. E non se ne niente, saranno accorti nel mio caso. No, vabbè, lo fanno però apposta. Stiamo parlando comunque del fatto che io, già dal primo giorno che ho conosciuto Alfredo, il primissimo giorno che ci siamo conosciuti, ci siamo salutati con due baci, quindi stiamo parlando 2022. Poi tu nel 2024, perché adesso è passato un anno, è da quando io sono stata segnalata, tu nella fine del 2024 ti ricordi che forse quel saluto non va bene. Quindi insomma stiamo parlando delle solite assurdità, delle classiche assurdità che ci sono in quel regime e che si ripercuotono anche nei confronti degli avvocati, ma non è che facciano paura queste, però fa un po' specie. Comunque sta bene Alfredo, o perlomeno si è ripreso abbastanza, i chili li ha ripresi, non tutti per fortuna. Però vabbè, comunque niente, è una testimonianza di affetto e stima per la lotta che ha portato avanti e continua a portare avanti tutti i giorni. Certo, grazie. In una condizione di grave vessazione. Niente, io volevo dire che con l'assemblea allargata di Olga abbiamo iniziato a pensare a tutta una serie di iniziative legate appunto alla solidarietà per Alfredo e anche in vista della decisione del rinnovo del 41 bis, e questo per noi è importante anche per non perdere i pezzi di tutti questi processi nati in seguito appunto alla mobilitazione in solidarietà ad Alfredo. E adesso vi faccio un piccolo calendarietto di iniziative che abbiamo messo su, e ovviamente l'invito è aperto se qualcuno o qualcun'altra persona avesse voglia di insomma proporre cose, questo è il momento, insomma, perché comunque secondo me è importante che continuiamo a parlare di Alfredo, a solidarizzare con il nostro compagno, perché questo compagno non è sepolto, sta lottando tutti i giorni e dobbiamo mostrargli la nostra solidarietà in tutti i modi possibili. Allora, il 23 febbraio alle 9:30 ci sarà un volantinaggio davanti al Tribunale di Milano, perché si terrà un'udienza che vede coinvolte delle compagne e dei compagni per un presidio fatto ad Opera appunto durante lo sciopero della fame di Alfredo. Il 28 febbraio ci sarà un presidio davanti al CPR di Corelli a Milano, l'orario non lo sappiamo ancora. Il 4 marzo ci sarà la presentazione del libro di Claudio Cipriani, che è Next Stop Modena 2020, che racconta appunto la rivolta di Modena nel 2020 appunto. E il 14 marzo ci sarà un volantinaggio davanti al carcere di Opera per arrivare al 22 di marzo, dove ci sarà un presidio alle ore 3 davanti al carcere di Opera. Grazie. Tutti questi appuntamenti saranno ripresi di volta in volta. Va bene. Grazie a tutti. Come dicevo prima un po' scherzosamente, c'è l'intenzione di, per parte nostra, cercare di continuare a produrre dei materiali che siano utili alla comprensione del momento storico che stiamo vivendo. Questo sia sul piano della legislazione d'eccezione, sia sul piano delle politiche migratorie. Attendiamo il nuovo decreto a riguardo, però insomma la situazione è estremamente pesante e preoccupante, vista l'iscrizione dell'Unione Europea, dell'approccio sulle deportazioni, sostanzialmente sull'esternalizzazione della gestione dei richiedenti asilo. Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo presto, alla prossima. Buona serata. Ciao e grazie ancora.